non amo andare a teatro. Ho smesso più o meno all'età di 15 anni dopo un periodo di accanimento adolescenziale. Per non andarci più ho le mie buone ragioni che anche, grosso modo potrei anche riassumere. In breve, innanzitutto, mi dà fastidio chi recita e si vede che recita. Non riesco ad apprezzare l'istituzione di un canone linguistico particolare che debba sovrastare i toni e i modi della chiacchiera quotidiana. Mi suona tutto troppo fasullo e artefatto, mi sembra di essere destinatario di una comunicazione privilegiata e la cosa mi imbarazza. Riesco perfino a soffrire per chi so che in quel momento è costretto a dirmi una sorta di bugia implicitamente convenuta. So che con i grandi attori spesso questo fenomeno non accade, ma so anche che i grandi attori sono rari e che troppo spesso i grandi attori, per essere tali con maggiori garanzie, amano circondarsi di attori che grandi non sono. La seconda ragione è meno opinabile, a nessuno verrebbe in mente di prendere l'infinito di Leopardi e sostituirgli una parolina qua ed una là, a nessuno verrebbe in mente di trasferire l'incipit dei Promessi Sposi sul lago di Bolsena o ai piedi del Kilimangiaro e a nessuno verrebbe in mente di far raccontare una barzelletta sconcia alla gozzaniana amica di Nonna Speranza. Nessuno comunque a modifiche fatte avrebbe poi il coraggio di attribuire il tutto al medesimo autore e far come niente fosse stato. C'è un modico rispetto per chi ha scritto e per quel che ha scritto, in grazia del quale al testo viene concessa tutta l'integrità che è possibile concedergli. Bene, a teatro questo non accade. Lo stravolgimento del testo è pressoché la regola, sia che si giustifichi la cosa tirando in ballo l'adattamento ai tempi, i mutati gusti del pubblico, la manutenzione del linguaggio, quant'altro di scuse che servono a gratificare le voglie spettacolari di qualcuno, soddisfatte a spese di qualcun altro, ovvero del povero autore che è morto e sepolto e ignaro dei vandalismi che sta subendo, continua a firmarsi responsabile di un'opera non più sua. Tutto ciò non mi garba ed è preco, per cui mi astengo dal frequentare teatri. Tuttavia, l'altra sera sono andato a vedere Mercadé l'affarista di Honoré de Balzac. A questo passo per me strano mi ci hanno spinto vari motivi, fra cui quello di effettuare un confronto non facile. Fra i miei ricordi giovanili c'era l'edizione di quasi 40 anni fa del Piccolo Teatro di Milano, ove al personaggio principale, l'affarista Mercadé, prestava anima e corpo il povero Tino Boazzelli, una forza caustica della natura, uno stupendo istrione che nel cinismo e nella prorompenza di indugi si trovava a perfetto suo agio, no? L'edizione di oggi è invece affidata ad Ernesto Calindri, attore ultra-ottuagenario, misurato per nascita e per vocazione, emblema di bonomia signorile e di affabilità. C'era dunque di che divertirsi al confronto. Mercadé l'affarista è stata scritta da Balzac più o meno nell'anno stesso in cui fu esplicitamente ambientata, cioè nel 1839. Poi, essendo pubblicata puntate sulla Revue Parisienne, a partire dal 25 settembre del 1840 deve aver subito parecchie rifiniture, diciamo così. La sua prima rappresentazione curiosamente avvenne in formato ridotto nel 1851 a cura di un certo Adolphe Denery. Non è commedia priva di risvolti autobiografici, visto che è dedicata alle imprese revanchiste di un finanziere sull'orlo della bancarotta e visto che, guarda caso, anche Balzac medesimo in quel periodo si trovava in pessime acque a causa di speculazioni sbagliate. Ma soprattutto è commedia critica, ferocemente critica della borghesia e del pescecanismo attuato attraverso i marchingegni della borsa. Mercadé vive di azioni di società fantasma, di ectoplasmi dell'immaginario capitalistico, tramutando sabbia in cristalli, oceani in saline, boschi in stuzzicadenti, comprando e rivendendo tutto il nulla che sia tuttavia provvisto di una certa carta intestata almeno. Alla riduzione del credito finanziario Mercadé risponde con la carne della propria carne. Si trattasse anche di ipotecare il cuore di sua figlia pur di evitare la bancarotta e gli ufficiali giudiziari. È commedia di intrighi, di svolgimenti rapidi e soprattutto di comunicazione vorticosa, all'insegno della proporzione fra tempo e denaro e della corsa contro il tempo in cui scadranno le cambiali. Dal 1839 ad oggi di tempo ne è passato. Ma i meccanismi con cui viene fabbricato il denaro di qualcuno e la povertà di tutti gli altri, beh, non sono poi cambiati granché. Che il teatro registrasse dunque qualche accomodamento di linguaggio, considerando anche le consuetudini dei teatranti, dovevo aspettarlo. Non si dice che l'azione si svolge nel 1839, vabbè, ma i costumi d'epoca ci sono. Purtroppo i personaggi dicono frasi come «siamo alla frutta» o qualificano il giovane rampante come un giovane leone, esattamente come se avessero già visto il film con Marlon Brando e i giovani leoni, che Dimitrik avrebbe diretto soltanto nel 1957. Certe battute che volevano essere ad effetto vengono poi modificate, anche in modo discutibile. Allorché, per esempio, un personaggio allude all'eventuale matrimonio di due spiantati, laddove il testo originale parlava del matrimonio di due bancarotte, la versione attualizzata parla del matrimonio fra una cambiale ed un protesto, suscitando ancora qualche ilarità ed un applauso cortese. Il colpo più basso, a ben vedere, giunge allo spettatore nella drastica riduzione dei 5 atti originali nei due tempi oggi più in voga. Non è solo questione di rispetto dell'articolazione formale della vicenda, né solo questione di tempo, ma è proprio questione di contenuto narrativo. Tagliando via personaggi interi, comprimendo certe argomentazioni e riducendo all'osso certi rapporti, la vicenda risulta semplificata, certe sfumature banalizzate e i caratteri dei personaggi fortemente stilizzati. Si direbbe che le persone diventano maschere e che alla fin fine una commedia dove la farsa era un esito drammatico del suo interno sviluppo diventa una farsa dal principio alla sua fine precoce. Spiace che anche a Balzac sia toccata l'applicazione di questa legge onnipervasiva che per la via maestra della televisione, giocando al ribasso dell'intelligenza dello spettatore, impone faciloneria sbrigativa, pressapochismo e superficialità e soprattutto la biura di ogni tentazione critica. Chi pensasse, insomma, che la pesantezza del restauro con cui si è voluto riportare alla luce della coscienza l'opera fosse dovuta alla scelta dell'attore, che per forza di cose avrebbe condizionato certe soluzioni e di tempi e di modi, beh, l'azzecca solo parzialmente. L'attore vive l'epoca sua e non fosse pluriottuagenario, ma sgambettasse ancora nel pieno della sua virilità, sempre e comunque farebbe parte di un metabolismo ideologico più grande di lui. Chi ci mette in scena tutti quanti oggidì, non ama la raffinatezza d'analisi, preferisce la grossolanità. Maestro di asetticità, ci taglia e ci cuce addosso valori indistinti e intercambiabili. Merci buone per tutti i gusti e per tutte le stagioni. Il millantato nobile pretendente alla mano della figlia di Mercader ritiene che in tutte le epoche esistano aggettivi che sono il passepartout delle ambizioni. Prima del 1789 in Francia si diceva economista, nel 1805 l'aggettivo era liberale e lui, scommettendo sul partito di domani, si sente socialista. E dunque come socialista si presenta al padre per la delicata richiesta, la mano della figlia. La citazione è corretta e perché, a quanto dice anche il Migliorini nella sua onomaturgia, sembra che la parola fosse usata parecchio in Francia attorno al 1835. Anzi, tal Raybaud vorrebbe essere stato il primo ad usarla in un articolo apparso sulla Revue des Deux Mondes nel 1836. Nel testo originario, a sentir la parola, Mercader lo interrompe con un socialista. Che cos'è? Una nuova impresa? Parliamo di interessi. Nella versione ideologicamente domestica somministrata oggi, Calindri Mercader riflette ad alta voce che il giovinotto, suo genero eventuale, gli sembra intelligente, ma sentendo la sua professione di fede socialista, sbotta con la constatazione che in fin dei conti, beh, l'una cosa non esclude l'altra. Che anche un socialista, insomma, può essere intelligente. Non sfuggirà a nessuno che la battuta è davvero molto poco o nulla balzacchiana, che nemmeno volendo avrebbe potuto nutrire opinioni del genere, mentre è tanto gratuitamente maliziosa e gravemente stupida. C'è chi allora, profittando indegnamente di qualche anno di bagno penale craxiano, riesce a trasformare 150 anni di lacrime e sangue del movimento operaio in uno zimbello per i nuovi ricchi e scemi. L'aspirante genero di fede socialista compare anche in quel giornalino di Gian Burrasca che il mazziniano Luigi Bertelli, in arte Vamba, pubblicò anche lui a puntate sulle pagine del giornalino della domenica fra il 1907 e il 1908. È il Maralli, l'avvocato, quello che si sposa in chiesa di nascosto con la Virginia, sorella di Giannino. Anche lui si dice socialista, tanto è vero che la futura suocera si oppone alle nozze per un certo periodo, ma c'è il suocero, che la salunga sulle umane debolezze e la rassicura, che in fondo è un buon diavolo, che essere socialista oggi non è una cosa brutta come 20 anni fa e che probabilmente il Maralli finirà deputato. È come se scoprissimo che un intero ciclo di tradimenti c'era già stato e che quello vissuto da noi altri è stata una specie di replica. Dal socialista di Balzac a quello di Gian Burrasca siamo passati dall'opportunismo all'opportunismo. In mezzo c'è stato chi ci ha provato davvero. Dall'opportunismo di Gian Burrasca a quello dei tempi nostri, diciamo così, con altra gente che ci ha lasciato la pelle. Sul palcoscenico della vita è una corta regia, fa sì che poche battute di qualcuno siano più che sufficienti per cancellare interi discorsi degli altri.